che dalle finestre sparavano sui nostri, gettando anche tegole e mattoni. La morte del comunista Urbani Umberto si deve a proiettili partiti da una di queste finestre. I lavoratori erano presi di mira da tutte le parti. Di fronte all'inutilità di una battaglia in condizioni sfavorevoli, si ritirarono trasportando i caduti. Nel mentre che questo accadeva, in piazza nel rione del ghetto transitava un certo Picci, noto fascista, che fu malmenato riportando contusioni e ferite leggere, e fu per l'animo buono dei lavoratori che non fu fatto a pezzi. Gli arditi del popolo nacquero a Civitavecchia il 17 luglio 1921, per iniziativa di Guglielmo Pollastrini, Vincenzo Loi e Filippo Di Gennaro. In una riunione alla Camera del Lavoro, a cui parteciparono anarchici, comunisti e socialisti, anche se gran parte di loro erano iscritti anche alla Lega Proletaria. Essi si impegnarono fin da subito nella difesa della città e delle zone limitrofe dagli attacchi fascisti. Eros Francescangeli, autore del libro Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista 1917-1922, afferma che gli arditi del popolo civitavecchiesi siano i meglio armati all'interno del movimento in Italia. Egli scrive: quasi tutti gli arditi del popolo della città sono dotati di rivoltelle e altre armi comuni, e che in aggiunta a queste hanno acquistato revolver, fucili e persino una mitragliatrice. Enrico Ciancarini ha scritto un libro proprio sugli arditi del popolo, nella ribelle e irriducibile Civitavecchia. Ascoltiamo un estratto di una sua intervista rilasciata il 29 ottobre 2022 alla Compagnia Pertuale, dove si è svolto un convegno nazionale di studi sugli arditi del popolo. Qui a Civitavecchia, 100 anni fa, ci fu l'ultimo scontro fra gli arditi del popolo, che erano una forte presenza, perché la polizia parla di addirittura 600 membri di questo battaglione degli arditi del popolo, contro le squadre fasciste che arrivavano dalla Toscana. Civitavecchia, come Parma e Bari, sono stati gli ultimi baluardi di resistenza a questa marea nera che purtroppo non riuscirono a fermare, ma non per mancanza di valore, ma soprattutto perché i fascisti avevano l'appoggio dell'esercito, delle forze dell'ordine, della monarchia. Dobbiamo ricordare sempre questo movimento degli arditi del popolo, sia qui a Civitavecchia ma in tutta Italia, perché furono la prima resistenza antifascista, i precursori di quello che poi sarà la resistenza che portò alla vittoria nel 25 aprile del 1945. Già il 19 luglio i rappresentanti degli arditi del popolo di Civitavecchia avrebbero dovuto partecipare al convegno romano del Comitato di Difesa Proletaria, ma all'arrivo alla stazione a Roma la polizia li arrestò. Al primo convegno nazionale a Roma degli arditi del popolo, che si tenne il 24 luglio, è presente anche una delegazione di Civitavecchia. Verso la fine di agosto il sottoprefetto di Civitavecchia convoca il locale direttorio degli arditi del popolo per intimargli la diffida di scioglimento. In un primo momento gli viene risposto che la sua richiesta potrà essere accolta solo quando l'associazione verrà sciolta a livello nazionale. Qualche giorno dopo, però, in un'assemblea nei locali della cooperativa dei lavoratori del porto, decidono di sciogliersi fittiziamente, ma di mantenere i contatti in modo che, qualora si presenti la necessità, la struttura possa funzionare come sempre. In pratica gli arditi del popolo diventano a Civitavecchia un'organizzazione semiclandestina all'interno della Lega Proletaria. Il 10 settembre sono celebrati i funerali dell'ardito Vittorio Scima. Molti dei partecipanti sfilano con il distintivo degli arditi del popolo all'occhiello. A ottobre Civitavecchia è la sezione degli arditi del popolo più numerosa del Lazio. La notte del 7 novembre alcuni compagni stanno attaccando dei manifesti contro il congresso fascista che si terrà a Roma. Arrivano i carabinieri, che intimano agli attacchini di staccare i manifesti appena affissi. Avviene uno scontro. Pietro Gorla, anarchico, disarma un carabiniere e nella colluttazione parte un colpo che ferisce a un piede un carabiniere, Gorla e gli altri compagni scappano. Il 15 novembre su Umanità Nova possiamo leggere che alla notizia che un ferroviere a Roma è stato assassinato dai fascisti, il proletariato di Civitavecchia ha avuto notizia dell'efferato assassinio fascista a Roma, con mirabile scatto si è mosso compatto in sciopero. L'autorità ha preso delle misure fantastiche. Torpediniere sono state ancorate nel porto. Da un treno carico di fascisti proveniente da Roma sono state sparate rivoltellate contro i soldati di pattuglia. Nel novembre 1921 gli arditi di Civitavecchia danno manforte ai compagni della capitale negli scontri con i fascisti arrivati per il loro congresso. L'8 gennaio 1922 si tiene a Civitavecchia un comizio molto partecipato per ricordare l'anarchico Pietro Gori e per sostenere la causa di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due anarchici accusati ingiustamente di omicidio negli Stati Uniti e poi giustiziati nel 1927. Tra la fine del 1921 e l'inizio del 1922 viene nuovamente intimato dalle autorità agli arditi del popolo di Civitavecchia di sciogliersi. Sempre l'8 gennaio si tiene un altro incontro alla cooperativa dei lavoratori, a cui partecipano circa 600 persone, e l'onorevole Giuseppe Mingrino, del direttorio degli arditi del popolo di Roma. Annuncia che la sezione di Civitavecchia non si è sciolta e continuerà a proteggere la ribelle irriducibile Civitavecchia. Ed ora ascoltiamo un pezzo strumentale dal titolo Battaglione Arditi del Popolo, sezione di Civitavecchia, di Sindi. Thank you. Il 9 febbraio si tiene una riunione convocata dai gruppi anarchici civitavecchiesi, in cui si afferma la necessità di costituire il Comitato di Difesa Proletaria e di presentarlo agli operai sabato 18 ottobre alle ore 15, invitando tutti ad abbandonare il lavoro per quell'ora. L'incontro con gli operai si tiene nella grande sala della cooperativa del Porto, che però non riesce a contenere tutti i partecipanti. L'assemblea è presieduta dall'anarchico Augusto Milo, corrispondente da Civitavecchia di Umanità Nova. Viene approvato il seguente ordine del giorno. I lavoratori di Civitavecchia, riuniti in solenne comizio per riaffermare una volta di più l'unione di tutte le forze del lavoro per far argine alla reazione statale e padronale, mentre costituiscono il Comitato di Difesa Proletaria, si augurano che i convenuti domani a Roma per la fusione delle forze proletarie atte a schiacciare l'idra reazionaria, prendendo esempio e incitamento dall'Unione dei lavoratori civitavecchiesi, concretizzino in una vera e fattiva azione di concordia l'auspicato fronte unico delle forze proletarie, che dovranno anche, con l'azione diretta, se occorre, far sentire fortemente il loro basta ai massacri, agli incendi e alle distruzioni di ciò che è patrimonio e vita dei lavoratori. Il 12 marzo, un fascista, tale Giovanni Luporini, proveniente da Firenze con il distintivo del fascio sulla giacca, in piazza Vittorio Emanuele, è circondato da un gruppo di compagni che gli intimano di lasciare immediatamente la città. Il fascista si incammina verso il porto, dove poi però spara un colpo di pistola. Ne nasce una sparatoria in cui vengono sparati diversi colpi. Luporini viene subito rilasciato, mentre la notte tra il 18 e il 19 marzo, per quell'episodio, vengono arrestati due arditi del popolo. Il 19 marzo viene pubblicato un comunicato. Il Comitato di Difesa Proletaria e il Direttorio degli Arditi del Popolo dichiarano di essere assolutamente estranei all'increscioso incidente avvenuto domenica 12 corrente, artificiosamente trasformato da pochi scrupolosi corrispondenti in un fatto di persecuzione politica. Mentre invece va ristretto ad un semplice episodio occasionale di quei tanti che le cronache nere registrano o compendiano in poche righe di piccola cronaca. Fa presente che i lavoratori di Civitavecchia non sono dei briganti. Essi si difendono, non aggrediscono, tanto che gli stessi fascisti locali, malgrado continue stentazioni, godono della più ampia libertà. Augura che tale incidente non si abbia oltre a ripetere e deplora la colpevole debolezza di irresponsabili giornalisti che tale equivoco hanno creato. Poi, il 4 agosto, durante lo sciopero generale nazionale legalitario, nella mattinata, arriva un treno proveniente da Grosseto con circa 400 fascisti di Orbetello, Portoferraio e Grosseto. Si ferma alla stazione di Civitavecchia. I fascisti scendono e si incamminano per le vie della città, cantando e sparando colpi di pistola. Gli arditi del popolo intervengono insieme a 300 operai jugoslavi impegnati nel cantiere della ferrovia in costruzione, Civitavecchia, Orte. Ed ora un po' di musica. Sentiamo In una notte di rivolta degli AK-47. Mascherati di false democrazie, spray, sfondo il muro, lamento l'onda rossa ed è giusto, forse ho visto male, forse un'allucinazione, forse dall'esterno non inquieta, succede pure che la rabbia ti entra dentro piano, poi piano piano sale tutto, questo ormai solo questione d'ore, da quanto tempo scelte, non c'ho preghiere, un movimento, non perdi il senso se non riesci a parlare. Isolamento, braccio della morte, un'iniezione letale, sta iniziando a contare, basta, basta, di freddo non lo senti, non senti più lamenti, ritmo quello giusto, una gavetta sulle sbarre per volare in alto con l'immaginazione, sfondare ogni muro di qualsiasi galera fino in fondo, fino all'ultima cella, una notte di rivolta. All'ultima cella, fino a quel giorno sarà l'ultima volta. In una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta. Il 6 agosto, Umanità Nova esce con un resoconto degli avvenimenti dal titolo Civitavecchia proletaria respinge l'invasore. Ne leggiamo alcuni stralci. Col treno delle 7:30 arrivarono in questa stazione 400 fascisti. Prima ancora di scendere dal treno cominciano a sparare migliaia di colpi di moschetto e di rivoltella contro i ferrovieri presenti, che per fortuna potettero sottrarsi alle scariche illesi. Presi dal treno, parte dei fascisti occuparono la stazione, mentre il grosso del contingente, al canto degli inni schiavisti, si dirigeva in città per compiervi la già da tempo annunziata spedizione punitiva e stabilirvi la dittatura fascista. Avvisati in tempo, i lavoratori del porto si disponevano alla necessaria difesa e ad essi si univano mano a mano i lavoratori dei cantieri recandosi incontro agli invasori. La forza pubblica, composta di carabinieri e guardie investigative, tentava di opporsi alla mossa difensiva, intimando la resa delle armi, ma dovette cedere dinanzi all'atteggiamento deciso della massa. Giunti gli operai di fascisti in piazza Vittorio Emanuele, incominciava la battaglia. Tosto gli invasori, che non erano spalleggiati dalla forza pubblica, troppo debole e non avvisata, cominciarono a prenderle ed a cercare coraggiosamente rifugio nei portoni e nelle vie adiacenti, nonostante gli incitamenti dei loro capi, che li insultavano e tentavano di spingerli all'assalto a colpi di calcio di fucile. Frattanto gli operai, dopo questo primo successo, si riunivano di nuovo nei quartieri popolari per l'eventuale difesa delle loro case, dopo che la truppa, giunta nel frattempo, era stata schierata nella piazza a difesa dei fascisti tremebondi e rincattucciati sotto gli archi del Caffè Traiano. Frattanto due idrovolanti, che avevano scortato il convoglio fascista, recavano tanto di tricolore, volavano a poca altezza, probabilmente muniti di bombe. Visto inutile ogni tentativo di fronte al contegno deciso dei popolani, dopo una sosta di attesa nella piazza, il corpo di spedizione punitiva, consigliato dalle autorità, si decideva a ritirarsi in buon ordine, scortato dalla truppa e dalla forza pubblica sino alla stazione. Assicuratesi della partenza del treno fascista, gli arditi del popolo, con in testa il loro gagliardetto e fra gli applausi della popolazione, improvvisavano una dimostrazione alla quale partecipò tutta Civitavecchia proletaria. Fatto il bilancio della giornata, vi sono un morto e sei feriti tra i fascisti, di cui uno gravemente, dalla parte operaia, due facchini del porto feriti. Alla sera ebbe luogo un grandioso comizio nel salone dei lavoratori del porto, ove parlarono alle migliaia di lavoratori intervenuti vari oratori. In un altro articolo di Umanità Nuova possiamo leggere: «Nobile è stato lo slancio degli arditi del popolo e delle donne che pronte dalle finestre attendevano di compiere il loro dovere di solidarietà». Ascoltiamo ora Batti il tuo tempo degli Onda Rossa Fosse.

nei punti strategici della città sono state poste auto blindate e mitragliatrici. C'è stato nella giornata un tentativo di accordo tra fascisti e operai. I fascisti hanno posto per la cessazione delle ostilità queste condizioni. 1. Dimissione dell'amministrazione comunale. 2. Passaggio della cooperativa del porto alle organizzazioni sindacali fasciste. 3. Manifestazione patriottica con la partecipazione delle organizzazioni rosse. Gli operai hanno respinto le proposte. Il Grand Hotel, dove si è installato il comando dei fascisti, è circondato dalla forza pubblica. Un centinaio di fascisti provenienti da Vetralla, diretti a Civitavecchia, passando per Corteto Tarquinio, incendiano la Casa del Popolo di quella città. Forti nuclei di fascisti sono partiti dalla Toscana e dall'Umbria, diretti a Civitavecchia. Pattuglie di soldati e di guardie regie sono schierate alle porte della città minacciata. La situazione è gravissima. Poi il patto di pacificazione viene firmato alla cooperativa del porto. Viene annunciato che la cooperativa civitavecchiese esce dalla federazione, non entrando però nel sindacato fascista. All'assemblea è presente il commissario di pubblica sicurezza, che consiglia vivamente l'approvazione del patto con le squadre fasciste, perché le autorità governative non sono in grado di contrastare la violenza fascista. L'11 settembre, in un nuovo articolo dell'Ordine Nuovo, possiamo leggere: la piazza è in mano ai fascisti, spalleggiati dalle forze dell'ordine e dalle autorità militari, apertamente complici delle camicie nere. I quartieri popolari restano saldamente in mano alle organizzazioni proletarie. Anche l'amministrazione comunale si dimise e fu affidata al commissario prefettizio Giuseppe Fea, che fa affiggere un manifesto in cui invoca la pacificazione degli animi e la concordia tra i cittadini per lo sviluppo della città. Ed ora ascoltiamoci un pezzo dal vivo della Corte dei Miracoli, Stalingrado. L'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa. Zappa. Poi i fascisti organizzano la marcia su Roma e Civitavecchia fu uno dei luoghi di concentramento degli squadristi. Carlo Scorza, gerarca fascista, racconta: Civitavecchia era fino allora roccaforte inespugnabile del sovversivismo. Nei tempi delle maggiori azioni fasciste Mingrino vi aveva messo il suo quartier generale. La parte più feroce era rappresentata dalle donne che in ogni occasione avevano incitato gli uomini. Ed ancora. Il 28 ottobre, giorno della marcia su Roma, i primi squadristi a Civitavecchia sono accolti da una nutrita fucileria. Gli arditi del popolo sono ancora ben organizzati e controllano la zona del porto e i quartieri popolari. Il sottoprefetto cerca di salvaguardare l'ordine pubblico, ma senza ottenere alcun risultato. Il 29 ottobre viene inviato un fonogramma alla prefettura di Roma, su cui è scritto: seguito precedente segnalazione, comunico che sottoprefetto Civitavecchia informa ora che i fascisti, rompendo ogni impegno assunto con autorità militare, sono entrati in città ed hanno devastato circoli sovversivi. Sovversivi si sono prudentemente allontanati dalla città mentre fascisti girano per le vie dando loro la caccia. Nel pomeriggio i carabinieri comunicano al prefetto di Roma che a mezzogiorno i fascisti sono dislocati come segue: a Civitavecchia sono 3.200, a Santa Marinella 3.000. A Civitavecchia hanno invaso la Camera del Lavoro, il Circolo Ferrovieri, il Circolo Repubblicano, la sede della Federazione Lavoratori Mare, il Circolo Anarchico e altri locali sovversivi, devastandoli. Augusto Milo, il corrispondente di Umanità Nova a Civitavecchia, viene catturato dai fascisti. Lo vogliono uccidere. Poi gli viene comunicato che per lui è stato decretato il bando di espulsione da Civitavecchia e dalla cooperativa dei lavoratori del porto. Il 6 novembre 1926 viene reintrodotto dal regime fascista il confino di polizia e uno dei primi ad essere condannato a 5 anni di confino è proprio Augusto Milo. Sulla strada del confino lo seguiranno anche gli altri esponenti degli arditi del popolo di Civitavecchia. Saranno 20 anni di persecuzioni, che si concluderanno solo nel 1944, quando gli ex arditi del popolo di Civitavecchia si uniranno ai partigiani. Per chi volesse approfondire, sono stati pubblicati alcuni libri. Di Marco Rossi, Arditi, non gendarmi. Dall'arditismo di guerra agli arditi del popolo, 1917-1922. Di Enrico Ciancarini, Il fascio spezzato, gli arditi del popolo nella ribelle irriducibile Civitavecchia, 19 maggio 1921, 18 ottobre 1922. Di Eros Francescangeli, Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista, 1917-1922. E con questo abbiamo concluso anche l'ultima puntata dedicata agli arditi del popolo.